Sì, 23-31 minuti primi l'avevamo così detto un'oretta fa. Ringraziamo perciò Elettrodo e il suo Disorder e Todos che ci ha lasciato lo spazio, perché oggi è per ancora una mezz'oretta scarsa, è il 15 di febbraio e il 15 di febbraio è una ricorrenza, una data che non vogliamo dimenticare, come non vogliamo e non possiamo dimenticare un compagno di questa radio e di questa via che ha animato appunto questa strada e questa via per tanti anni, fino a quel fatidico 15 di febbraio del 2002, quando a una fermata di una del pullman che lo portava a Roma a lavorare si fermò il cuore di Roberto Patata. Riempiendo il cuore di molti e molte di dolore in questa città, in questa via, in questa radio. E siamo qui col Caronte ad iniziare proprio con Camouflage, che per tanti e tanti anni è stata la sigla di Next Time, fino appunto alla morte di Roberto. Then a bullet with my name on it came buzzing through a bush. E al solito ricreiamo e salutiamo Roberto come sappiamo fare, cioè mandando dei dischi, della musica a cui lui teneva e perciò a cui noi tenevamo. E pensiamo che sia il modo migliore per ricordarlo. When I turned around, he was pulling a big palm tree right up out of the ground and swatting those Charlies with it from here to Kingdom Come. When he led me out of danger, I saw my camp and waved goodbye. He just winked at me from the jungle and then was gone. And when I got back to my HQ, I told him about my night. Quindi da Rosso 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale, come diceva proprio esattamente parola per parola lui. www.ondarossa.info, il sito della radio. Radio che sempre, allora come oggi, ha bisogno del vostro sostegno. In questo momento indispensabile, in quanto la radio è in grave difficoltà finanziaria. E quindi l'invito è andare su Sostieni del sito e trovare le modalità con cui sottoscrivere, con cui sostenere questa emittente. 61 80 40 01 è il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Vosci 56 00 185, Roma San Lollo. 06 491 750, recapito telefonico. Ondarossa@ondarossa.info, la mail della redazione. Adesso dovremo provare a capire, sì, questa cuffia funziona. È tutto straordinario. Occhiali da vista, vecchi in giro dappertutto, incredibile, barbe bianche. Che roba, Julian Cope. Questa non è una trasmissione, uno spazio senza ragione, immagino, senza struttura. È quasi la 25esima ora comunque. But if you believe in me, then you believe in human sacrifice. E va bene, stasera scaletta dedicata al nano malefico, l'amore nostro, l'amore di tutti noi. Non ci ha riempito il cuore di dolore, ci ha spezzato il cuore in realtà. Non potremmo fare a meno di essere un po' nostalgici, un po' retorici, ma insomma ce lo concederete. Abbiate pietà di noi stasera. Allora, non abbiamo una scaletta, abbiamo detto, bah, prendiamoci uno spazietto, un quarto d'ora, portiamo 3-4 canzoni, poi in realtà si è due, vai. No, forse tre. Sì, niente, il tre è meglio, sì, il tre si sente senz'altro meglio. Sì, sì, no, continua. No, dicevamo, non abbiamo una scaletta, no. Abbiamo detto ci prendiamo un quarto d'ora. Sì, sì, un salutino così. Poi invece poi alla fine il brano finisce, no? Il brano non finisce. No, vabbè, tanto è un disco, possiamo anche andare sopra. No, poi Domenico ci ha lasciato lo spazio anche per impegni suoi così, quindi. Allora, quindi tutti a correre su YouTube, su YouTube a cercare la che facciamo. A insomma, cercare di racimolare qualcosa. Esatto, abbiamo pizzicato qualcosa. No, sicuramente direi più di qualche ballata. Poi queste sono come le ciliegie, come si dice, come cioè quando cominci una tira l'altra e rischi di allargarti troppo. Esatto, contagiose. Quindi dicevamo, qualche ballata sicuramente, qualche pezzo punk, magari qualcosa di vagamente lisergico, vediamo un po'. Sì, vediamo un po' e poi magari sì, le spendiamo ancora due parole per i più giovani, per chi non si ricorda del Patata, perché appunto magari era veramente piccolo all'epoca e gli è arrivato questo mito che noi abbiamo sempre voluto sfatare, perché non ci interessano i miti, non ci interessano le leggende, perché appunto quello che è successo a Roberto è che è una persona invece in carne ed ossa che ci ha appunto, come dicevi, spezzato il cuore nell'andar via tanti anni fa. Esatto. Poi era conosciuto per alcuni perché c'aveva un bozzo dietro la nuca che fu oggetto di svariati concorsi. Di studi scientifici. Esattamente. Adesso dovrebbe succedere qualcosa, sì. Cioè dovrebbe partire un altro brano, ma in realtà noi non c'è, non l'avevamo preparato. Non l'avevamo preparato. Mamma mia, ragazzi, che figure. We'll be right back. Allora ce l'abbiamo fatta forse? Rimaniamo negli Stati Uniti, dicevamo qualche ballata e quindi insomma Dream Syndicate non possono mancare. Era la fine degli anni Ottanta, questo disco era particolarmente mandato, questo brano forse con focus particolare. Love the Sinner, Hate in the Sin. Loro sono i Dream Syndicate, questa era di Onda Rossa. Ancora negli Stati Uniti, il periodo è più o meno lo stesso, Queen on Red. Keep can read. Diciamo due cose: l'automatico intanto gracchia, il cursore c'è un po' di polvere probabilmente. E questo è uno dei motivi per cui richiediamo poi le sottoscrizioni ai compagni e le compagne che ci ascoltano. Yes Man, intanto sotto, in sottofondo, i Truly, La danza dell'uragano. Questo era un brano a cui era davvero molto affezionato ed era uno di quei brani che mandavamo quasi sempre in quelle serate, pomeriggi, serate davvero abbastanza riserte, in cui del lunedì, come queste erano le serate particolari degli speciali, quelli lunghi, sì, lo speciale Babbo Natale per esempio. Volevo così dare un'informazione, una notizia, una, come dire, che come ogni anno qua sotto un po' di compagni e di compagne sono venuti proprio a mettere appunto un mazzo di fiori sulla targa che ricorda qui proprio Roberto Massi, che sta qua a Via dei Volsci 56, e li ringraziamo come ogni anno, perché appunto è un atto che si conclude sempre con un applauso, proprio a testimoniare che nessuno ha intenzione di dimenticare Roberto e non può dimenticare Roberto, perché appunto tanto ci ha insegnato. E gente che stava in strada, e questa parola strada poi ritornerà anche più tardi quando faremo un'altra riflessione. Tra l'altro, il ricordo di quella mattina in cui si diffuse la notizia, era la mattina appunto del 15 febbraio del 2002, Mi ricordo ormai 14 anni fa, ma mi ricordo perfettamente gli sguardi attoniti della gente che compagni, diciamo, di tutte le realtà che si sono in maniera molto visti esattamente nello stesso punto, spontanea, assolutamente spontanea, dove era stasera, esattamente qui davanti alla radio. Mi ricordo volti agghiacciati e lacrime agghiaccianti, sì, abbracci e persone appunto che non volevano credere a sta cosa, e noi stessi per molto tempo abbiamo stentato a credere. Comunque, venendo qua in via, ci si aspettava sempre che spuntasse appunto Roberto da qualche, dalla libreria, o piuttosto che dall'angolo dove c'è il Marani, eccetera. Vabbè, poi, per chi lo conosce, per chi lo ricorda, tanti di noi e di voi che ascoltate, era ovviamente impossibile non avvertire la presenza di Roberto a San Lorenzo. Era... sì. E di questo appunto era vulcanico. Vorrei dopo, più tardi, fare un'altra osservazione. Va bene, allora intanto rimandiamo da capo, se riusciamo, la danza dell'uragano. Questa era di Onda Rossa 87.9 della banda in FM di Roma e del Lazio. Uno spazio autoconcretizzatosi. Uno spazio ormai quasi a ridosso della 25esima ora. Era un'ora che dedicavamo a noi e quindi stasera la dedichiamo a lui. Come again. Thank you. bene lievemente lisergici, ci dicevamo, non puoi così lievemente, atmosfere blu, chitarre ridondanti, distorsori e sustain, gli effetti più gestiti dai Pruri in questo disco, almeno. Sì, era il periodo in cui appunto ancora Patata ci aveva dei capelli corti, ma li aveva prima di sì, qui era a cavallo della svolta. Tra l'altro noi dobbiamo scusarci sicuramente con tutti i compagni post svolta di Roberto, perché almeno io personalmente non ne so assolutamente nulla di quella dimensione musicale, quindi non saprei. Sì, no, dai, qualcosina abbiamo preparato, insomma, bene, almeno bene. Bene, Truly o True Lies, preferite Hurricane Dance, la danza dell'uragano. Questi erano brani che di solito andavano a luci spente, insomma, quando ormai l'alcol ci aveva posseduti. D'estate, possibilmente, con il farfallone aperto, lo ripetiamo, sappiamo che lo diciamo un po' sempre, raccontare queste atmosfere, però sono dei momenti che sono stati formativi, tutto sommato, per noi, cioè ci hanno fatto diventare scemi quali siamo. Diciamo così. Bene, andiamo invece a sonorità un po' più, come dire, un po' più dense, un po' più rudi. Intanto si torna dall'altra parte dell'oceano, in Inghilterra. E qui siamo invece all'inizio degli anni Ottanta, attenzione, proprio l'era punk, post-punk, insomma, come volete voi. 1981, loro sono i Killing Joke, Complication. We'll be right back. attenzione, le atmosfere cominciano a riscaldarsi. Eh sì, bada che comincia non solo a riscaldarsi l'atmosfera, ma pure il Caronte, che lo vedo finalmente mixare. E tra l'altro ci abbiamo il CD qua, quindi possiamo fare Come Again proprio alla grande. Ci siamo risparmiati una nostalgia di fondo del vinile, ma insomma hanno fatto il loro tempo, no? No, no, no, perché direi che stanno ritornando più. Esatto, il problema è che dovremmo anche risistemare i piatti. E allora dicevamo Come Again per forza dai. Anche perché loro erano avanzi di galera, Nick Ness, Mick Ness proprio era uno che... Distorsioni sociali, social distorsioni. In carcere c'era proprio entrato e cantava molto e suonava molto appunto di questa America minore, della California nella fattispecie. Beh, da lui che riusciva a cantare e a suonare in carcere. E di gente appunto che in realtà essendo ai limiti della legge molte volte andava a finire in galera, che è una parte importante della costituzione, della cultura, del modo di vivere degli Stati Uniti, e non dobbiamo mai dimenticarcelo. Pensiamo a tutta la filmografia per esempio sul carcere, o tutta la filmografia che esiste su questo tipo di personaggi, insomma, sì, purtroppo, che vivono appunto ai margini, come dire. Purtroppo la realtà poi spesso supera qualunque scenografia, qualunque filmografia. Purtroppo la gente in carcere, soprattutto dalle nostre parti, muore, oltre che essere privato della propria libertà. Da capo Social Distortion, So Far Away. Guarda questa roba qua, se la sentite in cuffia non c'è, è una roba devastante. Concedeteci ancora una volta questo attacco, perché è una roba da delirio. 0649175 onda rossa. soggiorno con una faccia da lesso, bevo una aspirina e poi mi pari col cesso. Mi specchio e vedo che sto giallo come il limone, ci pensa e ci ripensa e mi farebbe il cannone. Macchine tesane, de caffè concentrato, un grappa e un po' di gin e mo me so riassestato. Vorrei farmi una tromba e me se legge in faccia, c'ho 10 sacchi e mo di chiaro aperta la caccia. Con la sciarpa della Roma monto sulla vespetta, son 100 metri quasi secco già la vecchietta. Non è proprio tutto sottoscrivibile qua, eh? Rock and roll, rock and roll. Mi riferivo alla sciarpetta. Me ne frega niente, voglio fare una fumata. Rock e rolla, yeah, rock e rolla, rock e rolla, guy. Arrivo un comitiva, c'è Sanzietto che... Rock e rolla. Già tutto finito, ecco che succede. Fuoco da vigne, mi dice. Se poi il fumo è una cannonata, poi via la respetta e senza via da patata. Lo cerchio dappertutto, non si sa quanto sudo. Patata te scongiuro, dammi pure lo scudo. Coro come pazzo e finalmente lo becco. Ma studio e dico grazie. Ma che sta? Ma io penso che c'è sta poco da tigne, mi dice. Se poi il fumo è una cannonata, poi via la respetta e senza via da patata. Lo cerchio dappertutto, non si sa quanto sudo. Patata te scongiuro, dammi pure lo scudo. Coro come pazzo e finalmente lo becco. Ma lunga si studi e dico grazie se quello mio verso casa con gli scudi in sacoccia. Come fermo dal vinaio e Dio pure una poscia. Rock e rolla, yeah, rock e rolla, rock e rolla, guy. E metto su un bello suonato dai. E pensare che stasera c'è una bottietta d'acqua minerale. Per Massimo, ma non si può raccontare. Dai. Rock e rolla, rock e rolla, guy. Sì, è un po' triste la plasticaccia dell'acqua minerale, eh. Ascolto il da senato, giudizio di mangiato troppo e non ha sputato un cazzo per la gente che lavora ed intanto il tempo vola. Vola tra i risparmi di una vita, il tempo passa in fretta e il lavoro collaborare, se questa barca affonda è colpa di chi rema e scendere giù in piazza non serve alla nazione, se poi ti vuoi sfogare nel cantino dello stadio è sempre meglio che farlo su orario sul salario, poi 8 ore piene ti faranno dimenticare per chi batte il tuo cuore, per chi devi lottare, per la gente che lavora ed intanto il tempo vola, vola tra i risparmi di una vita, il tempo passa in fretta e il lavoro è una prigione da cui non si esce mai e tutto attorno si consuma lentamente, chi comanda non ti lascia più il tempo per decidere di te, oh, oh, oh, oh. Per decidere con noi, oh, oh, oh, oh. Per lottare assieme a voi, perché il tempo se ne va. Perché il tempo se ne va. Perché il tempo se ne va. Perché il tempo se ne va. In blue don't miss out on our dedications, ACAB, all coppers are bastards. E dagli. Loro sono i Four Skins, ACAB, all coppers are bastards. Ma non ho capito bene che hanno detto loro all'inizio. Manderei, dedications, ACAB. The boys in blue don't miss out on our dedications, ACAB. All coppers are bastards. Bastards, loro erano i Four Skins. E invece di qua ritorniamo in suolo italico, anzi quello brianzolo per la precisione, loro sono gli Erode. E questa è Panico, poi ci parliamo sopra, la mandiamo da capo, non si sa. No, sì, volevo dire quest'altra roba qua, che appunto parlavamo prima di strada e del rapporto di Roberto con la strada, e col fatto appunto che in realtà teoria e pratica, prassi e teoria, in realtà era vivere in quei giorni, in quegli anni, proprio la strada, cioè essere una parte del quartiere, è la presenza costante proprio di quella generazione su un territorio specifico che era questo di Via dei Volsci, proprio per cui appena staccato dal lavoro Roberto, come tanti e tante altre di noi, comunque si precipitava in via praticamente tutti i giorni, e in questa maniera diciamo anche San Lorenzo era un quartiere diverso ovviamente, perché comunque era presidiato proprio fisicamente dai compagni che ci stavano, si incontravano, c'era la libreria, c'era la radio, c'erano i vari posti della via, e c'erano le birre, c'erano i presidi antifascisti, ma c'era una quotidianità soprattutto che era quella proprio di vivere insieme quei momenti, di crescere insieme, di fare cultura, e appunto proprio qui si chiude il cerchio, cioè proprio mai considerare quella che è la propria vita differente da quello che è il proprio essere politico, il proprio agire, la propria quotidianità. Ecco, e a 14 anni dalla morte di Roberto molto è cambiato, c'è stato quel fenomeno che alcuni indicano come gentrification, per cui tutti quei quartieri popolari di un tempo in realtà non sono più quartieri popolari, ma sono sempre diventati più luoghi dove la merce la fa da padrona, la merce attraverso appunto il tipo di ambiente proprio e la valorizzazione proprio degli stabili, degli immobili, dei luoghi frequentati, che hanno tolto diciamo così l'acqua a questo tipo di approccio politico e sociale. È anche comunque un utilizzo diverso diciamo dei quartieri, dei luoghi, dei locali. E adesso è il momento degli apericina, dei brunch. Esattamente, però allo stesso tempo proprio in questi giorni, in questo periodo, invece aleggia proprio fra i compagni, nel movimento, nei singoli, in coloro, nelle donne e negli uomini, insomma, questo desiderio, questa volontà di ritornare in qualche misura, magari in forme e modi diversi, comunque a presidiare i posti dove si vive. E da questo capo. È un vuoto da capo? Da capo assolutamente, allora, oppure no, lasciamo andare il disco. Yeah. E a questo punto però non ce la facciamo a non mandare un inno. È una curva che frana. We'll be right back. Ma la via che sfumiamo la tele. Sei fatto duro. Sei fatto come un copertone. Ci facciamo? Barbie, sono in paradura. Ok, ok, nessun problema, ragazzi. Nessun problema. Sbarbi, sono in paradura. Schiodiamoci. C'hai della merda. Ma che viaggio ti fai? C'hai la banana gigantesca. Oh, c'hai della merda, no? Ma che viaggio ti fai? Intrippato. Brutta storia, ragazzi. Brutta storia. C'ho delle storie, ragazzi. C'ho delle storie tese. C'hai delle sbarbe a mano? No, c'ho delle storie. Fatti questo slego. 1, 2, 6, 9. Va bene, a ruota libera ancora Onda Rossa 87.9 della banda in FM di Roma e del Lazio. 491750 il telefono di questa radio. Uno spazio all'interno di un'ora che non c'è, la 25esima ora. Questa è musica per Roberto. Bada Bada e Out Out e Klaxon, musica di periferia, questo è Libero. Comunque tutti musicisti, insomma, autori che passarono per lo scader di un'ora. Sì, era 1990, i primi anni 90. Sì, primi anni 90 e poi 90. Fino all'ultimo, insomma. E poi ha anche continuato per un po' di allo scader di un'ora. Comunque, insomma, questa era un po' una parte della selezione che curava normalmente il Patata in quello spazio. Andiamo un po' a memoria, ecco, quindi prendiamo un po' i punti salienti e le cose che più volte furono mandati appunto da chi viveva la strada e lo faceva anche attraverso la radio, e quindi la possibilità di quella che era la musica di periferia, appunto, come negli Out Out, come i Klaxon, come i Contromano che abbiamo sentito prima, di essere sentiti nella strada attraverso Radio Onda Rossa. Sì, io confesso la mia ignoranza, nel senso che questa è musica che sicuramente ho ascoltato e che ho in testa, ma non saprei davvero ricollocare titoli, artisti, sì, sì, musicisti. Sì, vabbè, comunque quegli anni là, fine anni 90, più o meno ci siamo, insomma. Da capo Klaxon Libero, perché vale la pena, è uno che perde il lavoro in qualche misura, ma va bene così, si accorge. Sì. Ce l'abbiamo fatta. Radio Onda Rossa Ali Castelli, al CSOA Ipo di Marino, serata a sostegno di Radio Onda Rossa che c'ha bisogno. Dalle 22 concerti con Lud Rising, Ostiliter, Malclango, Scheletro, In grossa sottoscrizione di Radio Onda Rossa. In funzione cucina e birreria. Centro sociale occupato del gestito IPO, a via del Giardino Vecchio, Marino. E c'ha bisogno. No. Come tutto in paradiso, lì castelli, so è così. Attenzione. Lacrime acustiche. Se mi chiedi cosa vedo, guarda, non so più che dirti. L'ultimo dei sogni è fermo lì da tempo. E accanto a un foglio bianco appeso al muro. Se mi chiedi cosa cerco, quel che cerco è nei tuoi sogni. Tutto viene troppo, se ne va, ma il tempo è solo peso in un abbraccio senza fine. Ancora senza sicura. Se mi chiedi avete sentito dallo spot che abbiamo mandato poco fa. Centro sociale IPO di Marino presenta un'iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa sugli 87.9, trasmette la radio. Per adesso. Dalle 22 Lud Rising, Hostiliter, Malclango, Scheletro. Camminare assieme. Quattro punk, post-punk, crust, band. In sostegno e a sottoscrizione per Radio Onda Rossa, quindi all'IPO di Marino, daje 20, sabato 20 febbraio, dalle 22. Ci sarà tra l'altro modo di mangiare e bere anche prima dell'inizio dei concerti. Ci vediamo là, ne parleremo, credo, con il proseguire del palinsesto nei prossimi giorni. notte di periferia, luce bianca e senza vita. Io non mi sento più lo stesso, la calda attesa che ci tiene vicini e lontani. E non c'è pausa nel silenzio, mi manca sempre la tua voce. Lasciate andare le vostre zampette, Le azioni per sentirsi meglio non ci. Lasciate che il ritmo inlevare. Tu e ora che cerchi nell'assenza parole per sentirti viva. Vi penetri nel sangue. Mentre ci cerchiamo noi, non siamo. Lasciate scorrere il ritmo, ma ascolta bene. Prende. Scendo sempre più giù, mentre indico nel tempo tutto quanto non riesco più a darti. Poi ogni notte mi sorprende con le mie mani tra le tue e dal respiro la mia voce, ma tu mi sai ascoltare. ...52 minuti dopo la mezzanotte, Sembrava uno scherzo, un quarto d'ora... Si inizia così, appunto. Un quarto d'ora flessibile. Sì. E perciò che più o meno la chiudiamo qua, insomma. Sì, direi che la chiudiamo qua con un pizzico... Avevamo dichiarato in apertura con un pizzico di retorica, magari un brano che a Roberto forse non sarebbe neanche piaciuto più di tanto, però, insomma, a noi sì, almeno a me personalmente... Un brano che ci fa pensare al fatto che un ricordo non può morire mai, soprattutto il ricordo di chi con lui si è addormentato, si è svegliato, si è ubriacato, si è disteso sul pavimento, ha trasmesso, ha corso per le strade, ha rischiato molto della sua vita. Insomma, soprattutto per chi con lui ha fatto tutto questo, ma non solo chi ha fatto tutto questo, il ricordo di Roberto non può mai morire. E mentre vivo a bassa voce, l'ultima notte tua in questa città, sento aprirsi le tue ali sopra di me che non so più volare. Se c'è qualcosa da lasciare questa estate di periferia, se c'è qualcosa che ti lascio, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ma ancora un giorno puoi lasciarmi, mentre ti spiego quel che non dovrei, mentre cerco di seguirti nella mia corsa per dimenticarti. Ma poi la notte. Poi c'è anche il ricordo di chi, amico fraterno, con lui si è anche preso a botte, succedeva anche questo. Una persona sincera e diretta come lui non poteva evitare. Era il miglior modo di comunicare, quando ti menava ti voleva bene. Esattamente. La luce rossa si accende, il telefono trilla. Il ricordo ovviamente non muore mai. E invece stavolta l'ha fatta. Se non fosse così bello ascoltare questa musica, direi che per il dolore che ci ha spezzato il cuore non ce la faremmo quasi più a ricordare Roberto. luce bianca e senza vita. Io non mi sento più lo stesso. A lui un'ora senza tempo, la 25esima. Al nano malefico, amore nostro. E non c'è pausa nel silenzio, mi manca sempre la tua voce. Il freddo vuoto che trattiene ogni ragione attorno. Le azioni per sentirsi meglio non ci basta più. E ora che cerchi nell'assenza parole per sentirti viva, ti perdi mentre ci cerchiamo noi. Non siamo più gli stessi, ma ogni giorno mi sorprende mentre scendo sempre più giù. Mentre tutto quanto non riesco più a darti, poi ogni notte mi sorprende con le mie mani tra le tue e dal respiro la mia voce, ma tu mi sai ascoltare. Ebbene, non è certo un'ora senza tempo che può colmare un vuoto, la mancanza di Roberto brucia come quella maledetta mattina del 15 febbraio 2002. Noi e voi lo abbiamo ricordato così. Anche così. E mentre vivo a bassa voce, l'ultima notte. L'ultimo brano, Atmosfere Acustiche. Sento aprirsi le tue ali. Loro sono i Pearl Jam, li portammo in radio quando nessuno li conosceva. Un vinile bianco perla, per l'appunto. E questa estate. Quello che abbiamo scelto per lui, ribadiamo, un brano abbastanza sfruttato, Immortality. Sei tu, sei. Il suo ricordo non muore mai. Questa è Radio Onda Rossa 87.9 della banda in FM di Roma e del Lazio. Quel che non dovrei, mentre cerco di seguirti. Scade Aurora, la 25esima ora. Carti, ma poi la notte mi sorprende. Buonanotte a tutti e tutte. Che ti spinge in alto, ed è quel vento la tua voce, ma io ti so ascoltare. Radio Onda Rossa Ali Castelli, al CSOA Ipo di Marino, serata a sostegno di Radio Onda Rossa che c'ha bisogno. Dalle 22 concerti con Lud Rising, Hostiliter, Malclango, Scheletro. In grossa sottoscrizione di Radio Onda Rossa, in funzione cucina e birreria. Centro sociale occupato e gestito Ipo, a Via del Giardino Vecchio, Marino. Che c'ha bisogno. Come tutto in paradiso, li castelli, so è così. È arrivato un trillo in extremis e quindi la rimandiamo. Come sempre, Federia alla linea. the trap door.